alle 10, c'è qualcuno? Hola. Avanti. Hola, 1, 2, 3, prova. Hola, 1, 2, 3, prova radio. Chi è? Hola, 1, 2, 3, prova. Buonasera. Ciao Lazzai. Buonasera. Come ti va? Ehi, già va tutto bene per il momento. Sì, papà, ti va, piano piano, alla bella miglio, va. Ce l'avevo roba accesa, Gio Mario. E mi ha fatto il nesco quando ho schiacciato. Ah, vedi. Stavo spazzolando, guarda, ma con un'anima. Tutti ancora in fece, Gio. E Tore non è entrato. Ah? Tore non si è sentito. No, è ancora, entra più tardi, Tore, là. Verso le 7.20, là, 7.15, verso quell'ora entro, Tore. Ah, c'è già detto. E dove c'avevo, stavo spazzolando, ho sentito a te. Ok. Ma mi sembra che c'è qualcuno che voleva entrare, Gio Maria. Prova a vedere e farlo entrare. Vediamo, fa avanti chi vuole entrare. Venga dai, buonasera a tutti, doppio rumo. Io ci ho tentato tante volte ma non rispondeva nessuno. Io sono passato adesso già, buonasera. E non l'ho sentito, E se no già lo sai. Ben entrato. Gianni è Natalino. Io sono entrato, lo stesso l'ho acceso adesso qua. E ho sentito a Gio Maria e sono entrato. Avanti Gianni, buonasera. Ehi, ma perché sei tutto sparato stasera? Cosa hai fatto? E lui cosa ha sparato? Sempre il solito che è sparato. Sempre i quattro canonici. L'MB4, basta, non c'ho altro. Forse alzate il volume troppo io. Comunque la radio è fortissima. Non scappa. Gaba. Avanti Gio Maria, allora, come andiamo? Già. Sì, va fatto, zoppi a denti, io già mi fa. Non è che possiamo migliorare a quest'anno. Peggiorare sì, ma migliorare un po', però ce ne sono che stanno peggio, per cui grazie a Dio ancora camminiamo. Ma è facile. Per peggiorare è meglio stare così. È facile, quello che dico anch'io. Cosa ci vuol fare? Invecchiando siamo già. Gio Maria, meglio invecchiare. Se non invecchia uno vuol dire che si è fermato. Quello è. Io prima o poi di avere anche quel giorno. Vai, Natali, vai. Meglio invecchiare, tranquilli. Infatti, com'è questa radio già? La mia è. Questo qui è il 3009. No, ma stavo chiedendo questa la radio, com'è? La modulazione in confronto a quella di Natalino è più bassa, però già va bene, dai, c'è una modulazione normale, Giovanni. Il microfono normale, L'897, già va bene allora. Sì, è abbastanza chiara. Naturalmente quella di Natalino è più forte. Perché c'ha amplificato lui, lui c'ha l'MP4, è chiaro, io sto usando il normale, per cui non vogliamo pretendere più, fa bene ugualmente, dai. Vai Natali. Andare. E se da troppo fatto io me lo dite, lo abbasso pure. Perché non è alto. No, non si sente il televisore, so. Quello si sente perché è sensibile il microfono. È basso il televisore. Magari tu lo senti un bel perché per il microfono. aspetta che lo abbasso il microfono, là lo pongo più così, bene va. Voglia, adesso va benissimo, sì, perché era un beato. Praticamente si portava anche le spugne del televisore, dai, sentiva un bel forte il televisore, deve essere che te l'amplificava. Amplifica già pure il televisore, e non è quello. Io non lo sapevo come sto uscendo, perché non ho altri apparecchi per poterlo vedere come esco. E quindi non pensavo che era così forte. No, va bene, ma quello lì l'avevi fatto qualche modifica a quel microfono, è normale? No, gli ho fatto una modifichetta dentro e la capsula gli ho cambiato, se no non esce così le mie 24. E che capsula l'hai messo la Tari, quelle di Cito? Una che ne avevo, di quelle piccole sempre. Vabbè, magari è a chi ha fatto quella buona. Infatti, poi non ho un altro apparecchio per poter vedere come esco. C'ho solo questo qui, questo omologato, e non posso vedere come si esce. Ma già. Dimmi, Giovanni. Sto chiedendo che sta venendo il genere. Dai, sentiamo. Ci sta le prossime, c'è anche a Natalino, dai, chiudo. Ciao ciao Giovanni, ci sentiamo, dai, buona carica quando la fai, avanti Natalia. Ciao Giovanni, buon tutto, ci sentiamo alle prossime, salutami a Torre se lo sei. Oh, va bene, grazie per le quattro chiacchiere, avanti Gianni. Ieri sera lo stesso, siamo rimasti sino a tardi, fino a verso le 8 e qualcosa con Carlo, perché poi ce ne sono andati tutti e siamo rimasti solo noi due e non è entrato più nessuno. Infatti, adesso io stavo ascoltando, però senza rendermi conto che questa antenna qui non la potevo usare perché era attaccata a questo apparecchio qua, e stavo ascoltando i 10 metri col dipolo e quindi non sentivo un tubo. Me ne sono reso conto poco fa, bisogna gli metta un commutatore d'antenna che vada da qui al ricevitore. Certo. Per tutta non ci indio nulla in 28, in 10 metri, perché l'antenna non ne avevo attaccata di... Ma dimmi tu. Ma Taria, sai che ho sentito oggi? Antonio, te lo ricordi, Antonio Tirò? Sì, sì. E dove l'hai sentito? Al telefono. Eia, ho trovato la moglie in banca e mi ha detto, aspetta che lo chiamo, che gli fa piacere sentirti, che ogni tanto mi parla di te, gli fa piacere, aspetta. E ho detto, buonasera, signor Tirò, Antonio Luigi, sì. Ha l'onore di parlare con Gianni Ferro. Dice, oh, ciao Gian, come va? Come contento. E quelli sono le vere amicizie, già, e lo credo che gli ha fatto piacere. C'è di molto tempo che non lo sentivi, lo credo bene. Eravate sempre insieme. Poi anche dopo che ci siamo sposati, ci invitavamo a cena l'uno dell'altro, a casa dell'altro. Poi dopo che abbiamo avuto i figli ci siamo persi un po' di vista, però siamo stati sempre amici con Antonio. Non credere che mi sia dimenticato dell'amicizia che c'è da dire, no, ma manco io assolutamente. Infatti adesso ti chiedo una cosa, se ci vediamo qui ci facciamo una bella chiacchierata. Quelli sono gli amici, davvero. Io lo stesso ero molto amico di Giuseppe, quello che era carabiniere, quello lì, però non ci vediamo spesso. Quando ci vediamo già ci fermiamo a parlare, solo che adesso non sto più uscendo io, e quello è il problema, perché io lo trovavo spesso quando andavo al Mocador, perché lui usciva e passava lì e quindi lo vedevo, ma va, non sto più uscendo, cosa? E altrettanto dico, oggi sono uscito perché dovevo fare delle commissioni urgenti, dovevo andare a pagare il condominio, fare questo, fare l'altro, e quindi sono dovuto uscire per forza. Sono uscito con Marco perché mi ha aiutato anche a fare la spesa e tutto quanto, se no non vi la voce Natali, ho faticato un mese, tanto è vero che sono tornato a casa e ero sfinito. Non lo dire a me quando torno a casa lo stesso, ma fa che non trovo posteggio e mi torno distrutto. Torno già, lo so già, e io via. Ma poi ho girato le banche, cazzo, devo ritirare dei soldi, sono girato le banche tutte con il banco, col banco mante fuori uso, cazzo. Sono andato via Pruniceda, sono andato a Serra Secca, boh, niente, tutti fuori uso. Ma dimmi tu, ma si banco mante sono tutti andati in Oramara. È una comodità, Natali, perché è una comodità, qualsiasi ora tu se ti servono soldi passi e ritiri, capito? Però, cazzo, che non siano, perché anche quando ce ne abbiamo a Pascoli, ogni volta, sempre bloccati, non ce n'era uno solo in funzione. Stamattina sono stato sfigato. Sono andati via Pulizella e anche lì era fuori servizio, non ce n'era uno, c'era scritto per contabilità, qualche cosa del genere. Sono loro che lo bloccano per controllare qualcosa, è vuoto, lo devono riempire, capito? Io macchino, comunque poco fa non sei uscito, ho sentito sfigato e poi silenzio. Guarda a vedere il telefono con... Me ne sono accorto Natali, perché ho premuto male il pulsante, me ne sono accorto anche. Natali, al telefono, chi è avanti? Portante muta, io non so chi sia, non riesco a capire. Già, mi sa, ero al telefono un attimo, se sono arrivate le pizze. Vabbè dai, va a mangiare, tranquillo, dai, ciao Natali, ci sentiamo, dai, buona carica. Ciao, ciao. E avanti, chi è avanti? Chi è? Vutti, non mi conosce più. Chi sei, Torino? Giovanni, so. Giovanni 500. No, 800. Ciao, poverino, quello qual è morto, mi pare. E io lo conoscevo. E anche io lo conoscevo, era tu più di Busci che faccia, ragazzi. Esatto, sì. E allora, Torino, mettemi con casa. Ma guarda, niente, sono uscito poco fa per comprare un pollo per i canucci, con l'arrosto. E prendermi qualche cosettina così e basta, un po' di frutta. Adesso è tutto. Potevi passare a casa, ragazzi. E anche io stamattina sono uscito con Marco a comprare qualche cosa, frutta, quello che ci voleva, e poi sono andato a pagare il condominio e sono andato in banca per tirare i soldi, invece tutti quanti in banco vanno fuori servizio. Ma io stamattina ho prelevato. Allora, pago apposta perché c'era il posto. Ma erano chiusi per conteggio, erano chiusi quelli di due banche, addirittura i due filiali, e sono andato alla centrale ed era così, poi sono andato via Pulizzetta, lo stesso era così, alla fine mi sono arreso, erano già le due e me ne sono tornato a mangiare a casa. Poi stasera mi serviva qualche sonnino, ho visto che di la veloce c'era la fila, allora sono fermato il sorveglio, ma con Matteo ho trovato un po' là. Vabbè, c'è dello domani, dai, non c'è problema, ci arrivo ancora a soldi, ma non voglio stare con i soldi contati. Poi comunque stamattina ho fatto un altro laser, uno avanti ieri la festa e uno oggi, però io questo risultato non vengo usato. Ti starei, va bene, li hai appena cominciati Torino, pretende che si faccia subito effetto. Adesso vediamo se a fine diciamo cura ti passa tutto. Mi stavo già anche di ultrasoni a parte il laser, 8 sedute devo fare. E poi domani gli do anche l'altra impegnativa per guardarmi il piede. Speriamo che ti facciano bene queste qua. Io l'avevo fatta a Porto Torres e ti dico che mi avevano praticamente fatto quasi passare tutto, poi sono andato a rifornire sul lavoro perché me l'avevo fatto al lavoro, questo disgraziato di dottore mi ha girato la gamba e me l'ha lussata di nuovo. Sì, niente, guarda, Ma io ho il piede deficiente già, sempre le cuffie, eh. Vabbè, mi ha un po' zoppico, perché non riesco a piegare proprio dove c'è la caviglia. Sì, sì, io ho un amico che era così, che non piegava il piede proprio. E vabbè, poi adesso vedi, se alla fine ti fa bene, se no farai altri tipi di infiltrazioni, qualche cosa delle infiltrazioni, non te ne stanno facendo. No, vorrei provare con l'Asia, dopo con l'Asia mi faccio le infiltrazioni. Se non siete infiltrazioni, se non siete siete passaiero. Ah, pagamento le infiltrazioni. E beh, dottor Pellicano avete fatto, no, certo, alcuni li fa nel studio suo, e detto ci mi ha messo, mi paga la simulazione, io sono molto ricetto, così così dice, ah, allora ne possiamo parlare diversamente, ok. Se lui aspetta mi fa le infiltrazioni, ok. Quando mi pago lo pago. Ho capito. Via. Nel resto niente, la mano mi dà fastidio di tanto, sento il bruciore, pizzica, fa male, poi c'è il distacco del trapizio. E vabbè. Ma anche per Natale io chiudo tutto, se ne meglio annunci me. E io mi affrecchi. E cosa tira le lunghe? E tanto questa roba qua non si sa se ti passa con queste cure che stai facendo. Se vuoi tirare le lunghe puoi tirare le calende greche, perché se non ti passa puoi tirarla ancora avanti. E cosa sei? Tu vuoi 2 anni, no? Allora immagino il trapezio e la gamba, sei per metà novembre, chiedo tutto. Io minimo chiedo 90.000 euro e glielo già sono avvocato. Di più sì, ma di meno no, quindi. Cappagappa. Almeno tu vuoi essere tranquillo. Ma quando ci abbiglio tutti le dirà, faccio un blocco, vedo tutte le baracchine e non io voglio più sapere. Esagerato. No, non mi interessa più tanto. C'è niente di frequenza. Per carità. Ma quando ci tira a te, faccio un compito di telefono. Oh, prego, cosa tua, ci vediamo. Ho già stato frequenza quello che è. C'è poca gente in questo periodo. Adesso fammi tutto il boom. Che ci sono praticamente qualcuno è entrato, ma anche Roberto sta entrando, per dire, dai, qualche notte entra. C'è stato questo boom, si sono presi la patente, quindi vogliono provare, è giusto che sia così, vogliono provare diverse frequenze, eccetera. No, ma ci sono molti ricchi di porco in ascolto, io lo so, me. E che non ha legato dentro, allora c'è la mia luce, continua a fare l'ascolto, poi faranno l'ascolto al silenzio, il miserabile giù. Beh, alla fine uno, se non trova gente si stufa. Io facevo così, accendevo, 10 anni fa accendevo, sentivo QRM, solo la domenica c'erano pochissime persone, Gio Maria c'era, Coso, la buona anima di Mario Mao, ogni tanto trovo qualche un altro, ma proprio la domenica e buh, poi gli altri giorni non sentivo più a nessuno. Sì, perché la gente è zuccona, la maggior parte dei cimini non è che si organizzano, me e io vai, ci ritroviamo, ci sentiamo, una escursione, una all'altra, ci troviamo in verticale, ci organizziamo una rossica, ci andiamo a mangiare la pizza, andiamo a fare quello, quell'altro, poi ci sentiamo in frequenza, no, non è più come una volta, capito? E di mezz'ora, altrimenti mandrò anche la moglie a prendere il microfono e parlare. Magari ti piace più ascoltare, e mentre ascolta fa altra roba, capisci? Ma io, a me piace, e poi già lo sai, io adesso sono a letto, Tonino, mi brucio bizzarro, se mi alzo subito mi fa male la gamba, quindi devo starmene con il sdraiato sul divano a guardare il televisore o il letto, e non lo nego, però... Se lo schiacci bene, non sei uscito. Guarda adesso. Adesso sì. Ho detto che se non c'è gente io me ne vado a cantare, non c'è problema. Io molte volte accendevo, spazzolavo, non c'è nessuno, boh, spegnevo tutto. Ma roba di 2-3 secondi, non di più, spegnevo, accendevo la televisione, di Max. Ho cercato le ricerche dell'oro, pure quelle che pescano i toni, insomma, o quelli che costruiscono per la gente che ha bisogno, insomma, e tiro e forse anche mezzo, ti rilassa. Ci imparano molte cose, sembra così, ma si vedono molte cose che non sai su T-Max e tutti quei programmi lì. Anch'io li guardavo un tempo, ma poi non li ho più guardato, dico la verità. Guardavo come nascevano le cose, tutto quanto, facevano vedere tutto, come costruivano le chitarre, come facevano quello, come facevano l'altro. Io c'ho uno strumento che non è molto grande, l'avevo comprato quando c'era addirittura, dove c'è la Lido adesso giù, andavo a prendere Alghero, lì c'era un negozio che era, cioè come si chiamava, vedevo tutta roba di, ecco ti posso dire, Trappari, di tutto veniva, comunque, non mi ricordo come si chiama. E ho preso questo strumentino della Black & Decker e ti rileva addirittura i cavi elettrici dietro il muro, 10-15 cm di profondità, sia i cavi elettrici che tubazione di ferro. E infatti stavo pensando, ma mi sa mi attacco un mattone e mi faccio mettere il detector e come si chiama pure, una zappita se c'è porco. A cercare oro. E questa portatina? Io li vedo un po' come come sciacalli questa gente qua. Ma mi sono certe pepite, o piccolissime o grandi, che mio belle, poi le sciogono, fanno proprio il linguaggio, belle. Ma a me piace quello lì. Allora, una volta stavo pescando di notte. Di notte io andavo verso le 8, verso le 8 e mezza, erano un quarto, anche forse più tardi, forse erano le 9. È passata una coppia col metro detector, ho detto cosa avete perso? Qualcosa? No, noi cerchiamo quello che perdono gli altri, ci facciamo, noi siamo di Genova, veniamo qua, ci facciamo da loro le ferie e poi ce ne ritorniamo alla nostra città. Io sono sicuro se vado in spiaggia non so se fare rosso dalla sabbia, anelli, catenine eccetera, ma non lo so se lo potrei fare. Sì che lo puoi fare, non è vietato, però è una cosa un po' è brutta, sembra che stai approfittando di quello che hanno preso gli altri. C'era un amico che è andato a Stintino, ha fatto una scatola di scarpe di roba d'oro in una serata, ha aspettato che se andasse tutta la gente e poi è andato, ha fatto la scatola di scarpe di roba d'oro. E molti mettono lo stadello, la retina fino a fine, e cominciano a stallare, lasciate cave e se c'è roba grossa rimane la rete. Se vorrei dire quello che si mette alla portata, che è talmente piccolina che è pietra sprecato, poi se la può continuare a mi rimire il cuore, mi fa un favore. Ma a me la sta mettendo. A me la mette. Ma lo so, non mi credo che neanche è vero. Ti arrivo forte, già come tu arrivi a me, quindi. Ma infatti, boh. E poi se non ti arrivo forte, c'è il rimedio. E allora. Allora, non arrivi fondo scala, non arrivi. Sono in pochi che arrivano come te, fatelo conto. Sono con 4 watt. Non dico che se me la faccio tocco la mano, ma quasi, dai. Io sto scendo con 4 watt, con le... col coso, come si chiama? Non mi viene adesso, vabbè. Siamo in capo. Col piccolo, 4 watt. Capito. A varie forze te ne vanno, dai. Molto le 9.30. Siamo a tiro di schioppo. Le antenne sicuramente si vedono, poi tra noi c'è Giuseppe, come si dice? Ma oggi sono cusurato. Giuseppe è tornato e tramette, qui dovrebbe arrivare ancora più forte di me. Giuseppe è tornato, lui non me la metto. È entrato anche ieri, era da un po' che non entrava, adesso, però c'ha un'antenna interna in casa, capito? Si deve sistemare l'antenna sul tetto. E che zona punto rimane, che zona più o meno? Sassari 2. Io è più vicino a te. Ma rimane tra me e te, capito? Allora se si vuole tutti e tre facciamo i tre dell'Ave Maria. Tre della Bogalisse. Ma io non ho notato che c'è la portantina, era da mollo. Io stavo per attaccare, perché la gamba non faceva tanto, no? Mi sento lo stesso. E lì fanno scala già, non sprecare niente, non ne vale la pena. Questo sto attaccando perché consuma anche di meno. Esce con 4 watt e consuma anche meno corrente. Oggi mi sono fatto, i raviolosi mi sono fatto. l'ascolto dato anche ai cucciucci che siamo con i piatti. Me l'avevo conservato per stasera, invece l'ho rimesso in casa e tanto con i piatti, immagini voi, e mi faccio una bella insalata per giro stanotte. Allora, ieri mi ha invitato mio cugino e cosa gli ho aggiustato, non sento perché non vedeva niente, e cosa tutta la moglie mi ha preparato, e tu sei manca. Che ha fatto prima le tagliatelle mare e monti, poi mi ha fatto i cocori pieni, le canguille, patate e polpi, come il monti non era, che poi alla fine mi ha dato troppo buoni i cocori pieni, dice, guarda, se ti faccio il fatto te lo porto a casa tua, me ne ha sbagliato gli occhi, ma così muove già. Già lo so, però a me il sapore dei cocoi che sono selvatici non mi piace tanto, mi piace più il sugo, però il sapore dell'umacone è troppo a sapore di selvatico. No, a me piace troppo già, troppo, troppo, troppo, io ne vado a fare, oppure il gioco dolce con il battato. Sì, ho notato la portantina comunque, vabbè, caro amico, come che ti chiamo, Pietro Sprecato. Perché non ci fa niente a mangiarmi. Ma quanto arriva questa portata? Ah, Santiago Sergio. Ma chissà dove è, boh. Lascio divertire. Se vuoi entrare, entro, se non si va via luce. A me, no, anzi, vieni via a correre. Poi qualcuno che cerca di entrare, non esce di radio, boh. Avanti, chi è che vuole entrare? C'ho qualche secondo di bianco. Chi vuole entrare? Non ha gana. Beh. E niente, io ho fatto ieri già. Devo andare a fare foto e... Allora, mi ha invitato prima a cena, la verità. Domani ci è invitato qua, che è festa, vabbè. E gli ho portato un pacco di papasini, un po' di tutto mischiato. E una bella bottiglia di vino che mi avevano regalato quando sono andato in pensione. Io vino un amico. E gli ho fatto una bella figura là. E niente, ma quando ho comprato quella roba mi sono comprato anch'io qualcosa di buono. Un pacco di amaretti, di fatto così. Ogni tanto la saggiuro. Dove sei andato? Dove sei tu io? No, Gianni. Questi li ho presi alla Conad. Ho capito. Provala con la pasticceria, vedrai che ti trovi bene. Non ho capito, cioè ci faccio un salto, dai. Tanto feste ce ne sono a Puglia, ma tra poco arrivano. E così. Comunque, ti posso dire la verità, mi manca il lavoro, dai. Ehi, Tony, riposati che hai lavorato. Cosa ti manca? Se provi qualche hobby, qualche altra cosa da fare, vedrai, io per dire canto e mi passa un bel tempo, capito? Devi avere qualche cosa che ti impegna, o gli uccidi, o questo, o l'altro, e un po' di impegno ce l'ho. Ah, io mi sono promesso, ne sto parlando anche con Stefano, appena mi pagano, io viaggio ma lo faccio. Adesso due settimane lì, da me c'è Stefano. Si sta troppo bene, da... c'è un bel di cosa bella. E lì c'è anche la Grazioli lì vicino, proprio vicino a casa di Stefano. Sì, lo sono detto. No, ma a me non mi piace Grazioli, a me mi piace la Graziosa, bella. Ah, ho capito, la... Vabbè, poi tra l'altro vado rapidamente a parte Stefano, ma ho anche mia nipote che lavora fissa a Brescia, capito? Quindi come la fanno per i due piccioni? Vabbè. Sì. Infatti mi ha dato la foto con sia Ida che Gemma, quelli di Uomini e Donne, che sono andato a bella perché si conoscono. Con chi l'ha fatta la foto? Mia nipote dice ma Gemma e Aida. Ah, credevo tu. Ah. Ma cosa io? Ma che te giochi in occhi, che si muoviamo. Per il momento non sono in condizione di poter partire, se non sei già partito. E vabbè, non sanno neanche già avanti. A parte quello, ma sei partito per andare a Stefano, lì c'è invece che me ne conta. Bisogna beccare il periodo che anche lui è in ferie, se no cosa fai? Beh certo, periodo di Natale. Se ne so chiudere bene la pratica. Ma vediamo. Comunque gli mariti ho visto che ho preso, li ho toccati prima, se mettono piano, visto che sono morbidi e non li ho comprati. Anche se li induci non avevo pigliato. Anche a me non mi piacciono morbidi. Eia. invece a Falcone piace a lui. A Falcone? Ti piace duro. Ma non le vuole a Marì. Marì piace una saccosa. Lo senti in amorelli, ti faccio sentire i piedi, guarda, fate che rumore ci va, non ci va, di bene che ne fare più di vero, e già me lo ricordo. E mi hai detto che vi siete sentiti e detto che hai sofferto dolori, dolori, dolori. E me non si chiama la Corregna, già. Cosa? Non si chiamano ancora. Lei mi ha detto che riapriva dopo le feste, capito, che era chiusa la sala, riapriva dopo le feste, dice già ci metto la buona parola, io ci parlo io con la dottoressa, vediamo un pochettino se riusciamo a, se riusciamo a metterla in mezzo. Ok, comunque fammi sapere, io ho di nuovo appuntamento, ho 800 euro e finire giovedì prossimo, alle 9 e mezzo, ma alle 10 meno 10 ci ha finito, perché laser 10 minuti e ultrasuono 10 minuti, prima era 25 minuti 10, adesso è molto bene, infatti esco prima, esco. Però la mattina già, 7 e mezzo sono già là, ma già parcheggio dove è? A me sono vicino, se no, se io vado verso le 9 dove 10, i parcheggio non acciaffe, deve che aggirendi, girendi, girendi, e pure per lo stato. Invece vado a presa, mi ascolto la radio, entro su Facebook direttamente, in macchina, mi faccio sedere, vado su Pigiolino. vabbè. Almeno ti trovi il posto per mettere la macchina, se no devi andare troppo lontano a metterla. Fosse stato più giù al quadrato ce n'è, ma devi bombe di strada. Ma io sarei sceso, avrei fatto colazione al bar e poi sarei risalito. Vabbè, ma la donna ho messo vicino al mare la macchina, tutta a piedi, poi ha fatto un po' di goccia di acqua, toccavo. Conviene venire preso la mattina, è forse prima. Va bene, se c'è la presa comunque questo problema. E anche al policlinico, non ti credere che il parcheggio se ne trova, se vai dopo le 7 non ne trovi più, devi andare all'interno e praticamente dall'interno devi pagare, vabbè, però almeno c'è il parcheggio sicuro. Non so, all'interno noi parcheggiavamo alla scuola, all'Itas che ci abbia porcellana. E quindi parcheggiavamo là. Giustamente mettevano i soldi noi, poco il biglietto, andavo in ufficio e me ne riforzavano 2-3 euro per la sera. Vabbè, ma non si paga tanto, perché l'altro giorno quello che ho conosciuto di Valedoria ci siamo trovati, beh, io che andavo a berci una cosa già, io c'avevo la macchina dentro, e vabbè, ma la macchina continua a futidine, aiuto, siamo andati, ci siamo stati un bel po', ho pagato 2 euro, ma non ho pagato tanto. Sì, ma noi andavamo dalle 8 alle 10, arrivavamo e fino a togliere la macchina all'ora e mezzo, con il gettone verde, poi i gomiti, mi sa che schiacciamo F2, mi ero dello scontrino. Sì, ma comunque è molto comodo lì, perché almeno c'hai diciamo una via d'uscita, se non trovi da un'altra parte il parcheggio vai lì e paghi, però almeno fai quello che devi fare. Ma io molte volte quando devo fare qualche commissione, anche ho fatto un'altra invece di fronte ex multirezzo di Ammettola, che si chiama Colonato, oppure devo fare qualche cosa in via d'Italia, io so cosa vuol dire, andiamo lì, forse c'ho la macchina, è uscito. Poi qualche volta entriamo dentro, faccio un po' di spesa, quando faccio delle condizioni, tacchiamo, e tu ti chiamo il servizio della macchina, è andato, e la paghiamo lì. Sì, perché se fai la spesa non paghi, ti fai dare lo scontrino all'uscita e ci metti quello lì e via. Sì, facciamo così. Ma è bene, qualcosa devi fare, capito? Poi se vuoi fare qualcosa alle zone di Messico non c'è problema, le magistrali conosco tutti, metto la macchina dentro, se trovo un buco lo metto dentro e non fa niente. Se chiudo il cancello, c'è Tanino lì, oppure c'è Coso, come si chiama, Carmelo, non c'è problema, poi se vado là devo trovare anche Luciana nel bar, ma non ti andavo mio primo sempre il caffè, la colazione, la pasta, stanno i numeroni. Ehi, quello faccio più. Allora ci aveva gli occhiali grossi, non so se ce ne ha ancora più. Mi ha venduto la prima macchina, ma è quello lì. Praticamente la 595 Giannini. Ma quando parla c'è odore da uno che riesce, che? Beh. Infatti. Ho già il ponte, e sotto il ponte c'è cioè, la cacuzza. No, a volte dipende anche dalla digestione brutta che fai, che non digerisci bene e cosa. E ce n'è una nel mio palazzo, quando l'altro per nascere il sole, io mi metto la mano davanti, facendo finta di grattarmi il naso, metto la mano davanti perché quando parla mi crepa. Poi lì al magistrato c'è sempre questa professoressa, ma è simpatica, parla tipo viziosa proprio. Grazie, poi diventa pure un vicepresidente. Quando devi vedere gli abbraccia. Vabbè. Ma è simpatica, e lo fa con poco giusto, se non la fa solo con me. Ma io mi sono sempre portato in tutte le scuole del servizio. Devo andare a condurre qualche giorno al Ghero a trovare. Come cacchio si chiama? Abbatti, Patrizia. Vabbè, infatti, vedi, hai già trasferita al classico, andatela a trovare, che devo dire. Sono, per esempio, Dibia è una bella canna, mi è sposata. Ogni volta che scendevo gli invitavo sempre il caffè, sempre il caffè. Mi prendeva la braccetta, mi prendeva, come si avvicinava alle tettere, oh già, mamma mia, già, cosa dire, oh io. Sarebbe bello, comunque, ripeto, prima anche perché io, lì non è che facevo una scuola, facevi tante scuole, in un giorno se andavo a Ghiro ti facevi tutte le scuole del Ghiro. Dico, i lavori veloci, è fatto. O se andavi a Mono, allora stai tutto il giorno, dal mattino, poi ti tocco là, con ci metti, un'ora e mezza, di partire un'ora e mezza prima. Tu sei sempre in sede alle 2 per 5 per entrare, alle 12 per fare. Quindi, niente, ho giri, non si so se ti fai le scuole di Sassari, però mi voleva più fuori perché quando si a Sassari ti trova forse per le palle, inizio la voce, ti chiama, no, gentilmente vai qua, vai là, e so, ti rompo le palle. Quando sei fuori invece non ti chiama, ma non vuole che le scuole sono a Sassari. Però vedi, giravi ogni giorno una cosa diversa, quindi una scuola diversa, quindi automaticamente facciamo le giornate ma non è possibile. Ah beh certo, tra viaggio e tutto, poi passava il tempo, va. E io, lavoro leggero, non ti comandava nessuno perché mi comandavo io stesso, quindi. Cioè, mia collega mi faccia migrare, io faccio l'elettricità, quindi. Io facevo il mio, quando invece lui non c'è niente a fare, lui dava la mano a me, quando io non c'è niente a fare, io davo la mano a lui. La tiro. Da soli più una volta sono andato perché non c'era mia collega o i figli o figli di basso. E tiro una pochettino pesante da solo, nel senso che non ti fa sembrare la giornata, capito? Quando c'è con qualcuno parli, fai, capito? Chiedi un parere, qualsiasi cosa, sei appoggiato anche quando viaggi, ti farà chiacchierata e va tutto in abizio. Vabbè, purtroppo. E questi giorni vado a trovare qualcuno, qualche amico. Vabbè, pazzesco, dai. Che vuol dire? Ma la nostalgia ti sta ferendo. Perché non c'è cosa fare, capito? Molte cose non ne posso ancora fare. A parte mi fa male il braccio e la mano destra. Questo cazzo di traficio che c'è accanto. Perché sennò mi sarebbe da fare, una cosa ci avrei da fare qua. Ma la posso fare per questo disturbo che ho ancora. Sennò la giornata mi sarebbe volata lo stesso. Tu pensi che ho ancora la sega circolare? Allora io me l'avevo venduta perché quando sono andato a Bologna Mare addirittura non volevo che la usavo, l'ho venduta, subito al volo l'ho venduta. Me la sono ricomprata già, non lo so cosa ho fatto, ce l'ho ancora scatolata. Ho la pulivapora. E mi aggiungo che deve essere dura a voi, ma... Te la sei venduta e poi te la riprendi. E magari hai pagata di più. No, non pagata, decisamente di meno, 10 di meno. Di quello che l'hai venduto o di quello che l'hai pagata prima? Anzi, no, aspetta. Allora, quella l'ho pagata esattamente 112 euro. Questa ho pagata 89 euro, molto meno l'ho pagata. E fino a che è ancora scatolata, mi serviva in foto, nella scatola è bella. E lì gliela puoi utilizzare perché sei in campagna, ma cazzo, usarla lì al mare era un casino. Non volevano, niente, pure c'è il baracchino, non volevano, c'era il video crudo, il telefono non funzionava, beh, mi sa che tu già, non è che ti sono aspettato tutto, no? Niente, ero peccato, a me piaceva lì, però... Qualcuno mi sta chiamando, scusa un po'. Sì, vai. Oh, Gianni. Ci sei, Tony? Hola, attenzione, Tonino. Attenzione, sul canale 10 c'è qualcuno.